insegnata con altra ferraglia, accatastata dove non batte neanche il sole, il pugno a un rottamaio che non ne conosce il vero nome. Perciò ti ho chiamato dottore, per ricreare un meccanismo perfetto. Un santo guaritore.